Gli undici e il parroco Schmuttermeier. Nota. Il parroco Schmuttermeier, insegnante di religione di una volta per la principessa, era morto nel 1899. Il 4 luglio 1922 vidi per la prima volta le undici ombre, che vedo spesso, sono colonne di nebbia di diversa grandezza. Io le vedo sempre solo sulla terrazza davanti e giù fino al monte presso la casa della birra, qualche volta mi passano molto vicine. Non si riesce a distinguere una figura, esse sono come avvolte nella nebbia, sembrano asparagi giganti. Io le vedo tanto spesso che non scrivo date, non mi importa niente di loro. La festa di Natale dopo la messa del mattino mi vennero molto vicino, allora dissi loro, se siete anime, pregate Gesù bambino, al che esse si chiusero insieme come un colpo, come un coltello da tasca ed erano sparite. Fu una cosa molto strana, perché a tutto quello che finora io avevo detto a loro, esse non avevano mai reagito. Il 27 dicembre 1921 vidi il parroco Schmuttermeier venirmi incontro in giardino. Egli era solo come uno straccio, ma non è possibile un errore. 3. Il 9 gennaio 1922 egli mi stava aspettando all'oratorio, non bello da vedersi. Io chiesi, signor parroco, posso aiutarla? Egli mi chiese una santa messa, che fu celebrata presto. La sera del medesimo giorno lo vidi di nuovo. Il 25 gennaio lo vidi per la quarta ed ultima volta. Mentre ancora stavo in chiesa la sera, vidi pendere dal confessionale una manica bianca. Io ne restai meravigliata, perché tutta la chiesa era vuota, ma pensai che la gente verrà pure. Un po' curiosa mi inginocchiai in un banco e ci ripensai, se non dovevo approfittare dell'occasione e andarmi a confessare. Circa 5 minuti dopo sentii aprirsi la porta del confessionale e esce il parroco Schmuttermeier, mi passa vicino, mi sorride amichevolmente e sale lungo la corsia di mezzo. Sotto la lampada davanti all'altare si inginocchia. Dopo un po' viene il sacrestano per suonare l'Angelus. Io ho l'impressione che inciampi quasi nel parroco. Fu accesa la luce, ed ora poteva vedere tutto molto bene. Era una cosa molto strana. Il sacrestano passò come attraverso il parroco, aveva l'aspetto di un mosaico a quadretti. Io potevo distinguerli tutti e due. Subito dopo era sparito, non lo vidi più.